sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Fiat ricordi che l'Italia è centrale. Il ministro Scajola incalza il lingotto. Secondo la stampa tedesca, l'accordo con Opel prevede la chiusura di due impianti in Italia. Riportati in Libia gli immigrati soccorsi ieri nel Mediterraneo. Una giornata storica, dice Maroni, insorgono le associazioni per i diritti umani. Boom del mercato nero. Nelle ristrutturazioni delle case scoperti 5.000 evasori totali tra le piccole imprese. La crisi non un dramma per l'occupazione, ma la metà dei precari restano a casa. Così il rapporto Unioncamere. Intanto c'è attesa per le decisioni della BCE. Il Papa domani in Israele. Le minacce dei talebani arrivano sul web. Il Vaticano fermi i crociati in Afghanistan. Il Messico tira un sospiro di sollievo. Influenza suina sotto controllo. Si riaprono negozi e uffici. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Il piano che la Fiat ha presentato lunedì scorso al governo tedesco per una eventuale fusione, unione con la Opel, prevederebbe la chiusura di alcuni impianti in Europa, anche due in Italia, uno al sud e uno al nord. Così rivelano oggi alcune indiscrezioni della stampa economica tedesca. E così sono arrivate le reazioni dall'Italia. Questa mattina il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, ha scritto una lettera al presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo e all'amministratore delegato Sergio Marchionne, chiedendo al Lingotto di non abbandonare l'Italia. La centralità delle fabbriche italiane nell'ambito dell'accordo tra Fiat e Chrysler e delle trattative per Opel è fondamentale, scrive Scajola. E nella lettera preannuncia anche un incontro per discutere le prospettive dell'azienda in Italia. E allora facciamo il punto con il nostro Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Avevamo lasciato Marchionne in America quasi da vincitore, e stava lavorando, stringendo sul progetto Chrysler, poi arrivano queste notizie, il progetto Phoenix e possibili tagli. Dunque, l'unione con Opel è sicuramente un'operazione più complicata che quella con Chrysler, proprio perché si basa sul presupposto di mettere insieme due aziende molto simili come Fiat e Opel, con una gamma prodotti simile e soprattutto molti stabilimenti in Europa entrambe, Fiat soprattutto in Italia, Opel soprattutto in Germania. Ora è chiaro che Marchionne, il quale deve convincere il governo tedesco a finanziare l'operazione e i sindacati tedeschi ad accettarla, ha dovuto scoprire le carte più con i tedeschi di quanto abbia fatto con gli italiani e probabilmente promettere che se ci saranno dei tagli all'occupazione ed eventualmente anche chiusure di stabilimenti alla Opel in Germania, ci saranno misure simili anche in Italia. È difficile immaginare che il governo tedesco e i sindacati accettino che i tagli, se ci saranno, vengano fatti solo in Germania e non in Italia. Quindi è probabile che, se effettivamente l'operazione andrà avanti, qualche forma di taglio ci sarà. Ricordiamo che questo progetto Phoenix presentato, così come le sue versioni precedenti, prevedono comunque una serie di riduzioni di organico e di chiusura di stabilimenti a partire dal 2011, cioè fra due anni, e fino al 2016, quindi con un orizzonte temporale abbastanza dilatato nel tempo e più gestibile anche dal punto di vista economico, nel senso che in un'economia che abbia imboccato la strada della ripresa sarebbe più facile anche gestire economicamente e anche socialmente una serie di riduzioni di impiego di quanto non sarebbe adesso in piena crisi. Andrea, si parla di un impianto al nord e uno al sud, è credibile quali potrebbero essere? Beh, al sud Sergio Marchionne ha più volte parlato dell'impianto di Pomigliano, ma anche di Termini Imerese, dicendo che comunque ci sono una serie di problemi. A Pomigliano sono stati fatti gli investimenti, ricordiamo, l'anno scorso. A Termini è un impianto che attualmente viaggia a meno di metà della capacità produttiva. Al nord è difficile immaginare che Fiat possa chiudere Mirafiori, tra l'altro lo stesso Marchionne lo ha escluso molto esplicitamente di recente. Può darsi che, come nel caso di alcuni impianti Opel, vengano chiusi, o l'idea di Fiat sia di chiudere alcuni reparti. Per esempio, sappiamo che a Mirafiori c'è una produzione di motori, potrebbe trattarsi di quello, ma è molto presto per dirlo. Grazie Andrea Malan. E voltiamo pagina perché sono giunte a Tripoli, in Libia, le tre motovedette italiane con i 227 migranti soccorsi ieri sui tre barconi nel canale di Sicilia. Ieri la questione sulle competenze nei soccorsi era stata oggetto di nuovi attriti con Malta. Poi la svolta. Di risultato storico parla oggi il ministro dell'Interno Maroni, ma c'è chi solleva dubbi sulla sorte di chi non libico viene rimandato a Tripoli. Critiche arrivano da diverse associazioni internazionali, tra cui Medici Senza Frontiere. Noi di questo aspetto parleremo più avanti alle 13.30 con l'intervista di oggi. E intanto sul pacchetto sicurezza e botta e risposta tra Maroni e il segretario del PD Franceschini, Elisabetta Fiorito, che succede? Beh, qui a Montecitorio è battaglia sulla fiducia per il disegno di legge sicurezza, ma anche sui termini. Continua la querela, il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini insiste sulle leggi razziali, i contenuti del provvedimento, dice, ricordano un periodo molto triste della storia italiana, perché aver introdotto il reato di clandestinità comporta l'obbligo di denuncia. Sciocchezze, replica il ministro degli interni Roberto Maroni. Sentiamo. Non mi pare che sia un ritorno alle leggi razziali, veramente ridicolo questa cosa. Tutte le norme che abbiamo introdotto sono presenti nell'ordinamento europeo, sono state discusse con il commissario europeo e francamente sono un passo in avanti importante nella lotta all'immigrazione clandestina, nella lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo messo norme antimafia concordate col procuratore nazionale Pietro Grasso, con le associazioni anti-racket, con la Confindustria Sicilia che si batte quotidianamente contro la mafia. Io sono davvero allibito nel sentire chi critica queste norme senza neanche averle lette. E evidentemente chi critica queste norme è più dalla parte dei mafiosi che non dalla parte dei cittadini onesti. Intanto la Lega preme per l'approvazione del disegno di legge, martedì il governo dovrebbe chiedere la fiducia per poter approvare le norme prima delle elezioni europee, un modo per evitare il voto segreto e i franchi tiratori all'interno della maggioranza che tanto preoccupano il ministro degli interni Roberto Maroni. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Oltre 5.000 imprese edili negli ultimi tre anni hanno eseguito ristrutturazioni senza dichiarare un euro di reddito. La Guardia di Finanza ha scovato, pensate, 5.246 evasori totali. La cifra dell'evasione è enorme, circa 3 miliardi di euro i redditi non dichiarati. Valentina Furlanetto ha intervistato il comandante Flavio Aniello, che ha coordinato le indagini. Stiamo agendo nei confronti degli imprenditori che effettuano quelle piccole ristrutturazioni edilizie, quelle che ognuno di noi fa nel proprio appartamento e che ci danno diritto ad ottenere delle agevolazioni fiscali. E avete scoperto 5.000 evasori totali fra le imprese edili, piccoli o grandi costruttori? Questo è un fenomeno molto diffuso nel popolo delle piccole partite IVA che vengono aperte proprio per compiere piccoli lavori di ristrutturazione edilizie. E quindi abbiamo colpito in modo massivo questo fenomeno che però complessivamente ha portato a determinare materia imponibile sottratta a tassazione per quasi 3 miliardi di euro, una mini manovra finanziaria, se così la possiamo definire. Geograficamente dove si trovano queste aziende? Il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, però ci sono delle regioni in cui si fa più ricorso alle richieste di agevolazione di questo tipo. Conseguentemente maggiori sono gli interventi che abbiamo potuto compiere in senso positivo, nel senso che abbiamo scoperto casi di evasione fiscale, e sono per il nord la Lombardia in particolare, per il centro il Lazio e per il sud Italia in particolare la Calabria. Avete scoperto anche molte persone che lavoravano in nero? Quella è una conseguenza diretta di questo fenomeno evasivo, per cui sono state scoperte oltre 10.000 posizioni lavorative irregolari con numerosi casi di immigrazione clandestina, cioè di lavoratori ovviamente immigrati clandestini e non in regola, con tutte le conseguenze che poi ne derivano per quanto riguarda il mancato assolvimento da una parte degli obblighi assicurativi e dall'altra di quelli previdenziali nei confronti di questi lavoratori sostanzialmente sfruttati. E secondo la Confcommercio c'è un altro dato in Italia. Il fatturato del falso, ossia il giro d'affari legato alla contraffazione, ha superato i 7 miliardi di euro, 200 miliardi di dollari su scala internazionale. Il che significa una perdita di circa 17.000 posti di lavoro regolari all'anno. E adesso non ci dite che siamo dei gufi, che parliamo solo di cattive notizie, perché il mercato nero nell'edilizia, poi la contraffazione, adesso il calo dell'occupazione. Ebbene, c'è stato un calo dell'occupazione, almeno nelle previsioni per quest'anno, anche se non è un vero e proprio crollo. È quello che emerge dal rapporto annuale Unioncamere, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è una vera e propria istantanea sul mondo del lavoro quella che emerge dai dati diffusi da Unioncamere. Nel 2009 nel settore privato i posti di lavoro diminuiranno di 220.000 unità con una contrazione del 2%. La flessione, spiega il rapporto, è legata all'andamento della domanda di beni e servizi, meno 2,5%, per le imprese industriali meno 1,4% per le attività terziarie. A livello territoriale la perdita di posti di lavoro dovrebbe essere più contenuta nel nord-ovest. Le imprese più colpite, dice ancora il rapporto Unioncamere, sono soprattutto le piccole e piccolissime che operano nel manifatturiero. Indici dunque tutti con segno negativo, ma dall'Unioncamere si fa notare che il tasso occupazionale di fatto tiene nonostante la crisi economica, per questo si può parlare di calo ma non di crollo dell'occupazione. È interessante poi andare al di là dei numeri, l'occupazione infatti si diminuisce ma sale di qualità, cresce la quota delle professioni maggiormente qualificate mentre si registra un significativo calo degli operai. In forte diminuzione anche la domanda di assunzione di immigrati rispetto al 2008, diminuiscono con i contratti a tempo, resta critico il ricorso al credito per le imprese. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. E sapete cos'è lo scontrino parlante? Lo scontrino l'avrete avuto in mano molte volte, su cui è riportato ciò che avete comprato. Vale anche per i farmaci. Un mancato rispetto della privacy, ebbene dice ora il garante, così lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi non riporterà più dal prossimo anno in dettaglio lo specifico nome del farmaco che avete acquistato. Ci sarà solo un codice. E così nemmeno il commercialista saprà quali sono i farmaci che, e di che, cosa soffrite, che abbiamo utilizzato. Adesso un appuntamento invece per chi ama i telefilm. 80 serie TV, di cui 21 inedite, per una volta finiscono sul grande schermo, perché parte infatti oggi a Milano la settima edizione del Telefilm Festival. I trentenni di oggi, cioè gli adolescenti di allora, rischiano di rimanere un po' delusi, perché dell'idea originaria c'è molto poco, ma 90-210 è pronto a tornare anche in Italia. Dalle ceneri di Beverly Hills, datato 1990, arriva la nuova serie ambientata al West Beverly High. L'anteprima in questi giorni al milanese Telefilm Festival, allo spazio Cinema Apollo fino al 10 maggio. Dall'India arriva Dharamveer per la TV via web bonsai, colorata e kitsch in pieno stile Bollywood. Dall'Egitto la sitcom Coiffeur Ashwak, che affronta anche il dramma, pur se in chiave ironica, della violenza domestica. I diritti non sono stati ancora acquistati. Molte serie andranno in onda sul satellite, altre come The Mentalist, Canterbury's Law, Privileged, Saving Grace e i nuovi episodi di Doctor House sul digitale terrestre. Su Rai 2 invece arriveranno gli attesissimi ultimi episodi di ER, Medici in prima linea, con il ritorno di George Clooney, ma anche loro passano prima dal festival. E se per le retrospettive ci sono soprattutto le proiezioni dei vecchi ma sempre ottimi episodi di Happy Days, si scopriranno anche due novità italiane. La seconda stagione della serie rivelazione dello scorso anno I Liceali, dal 24 maggio su Joy, e Non pensarci, tratta dall'omonimo film di Gianni Zanasi, Sorpresa di Venezia 2007, con lo stesso cast e una sorpresa in più. La nuova serie con Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Anita Caprioli e la partecipazione straordinaria di... Ma non ci penso proprio! Dal 18 maggio su Fox. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Una notizia dell'ultima ora: il Parlamento europeo ha bocciato un emendamento che condannava, le ricorderete, le recenti dichiarazioni di Papa Benedetto XVI contro l'uso del preservativo quale mezzo di lotta all'AIDS. Assemblea, emendamento dunque condanna bocciata dal Parlamento europeo alla vigilia di un altro viaggio del Papa che comincia domani e non senza tensioni. 13:18 minuti, torniamo con GR24 Extra Large. Siamo partiti dall'indiscrezione della stampa tedesca sulla Fiat. Ci sarebbero due impianti in Italia che potrebbero chiudere, nessun commento da parte del Lingotto. Il ministro Scajola ricorda alla Fiat che l'Italia è centrale. Una giornata storica ha definito quella di oggi il ministro Maroni, perché sono stati rimbarcati, riportati in Libia gli immigrati soccorsi ieri nel canale di Sicilia. E dopo le parole del segretario Franceschini del PD sul decreto sicurezza, sicurezza leggi razziali, aveva detto. Oggi insorgono anche le associazioni per i diritti umani. L'operazione nel canale di Sicilia è illegale. Poi alcune notizie economiche: il boom del mercato nero nella ristrutturazione delle case, la Guardia di Finanza ha scoperto 5.000 evasori totali. E poi per l'occupazione, le previsioni di Unioncamere per quest'anno, si parla di 220.000 occupati in meno quest'anno. E dicevamo, si annuncia non facile il viaggio del Papa che inizierà domani in Israele. Minaccia, Benedetto XVI, arrivano oggi dai talebani. In un sito web vicino agli estremisti islamici hanno invitato infatti il pontefice ad impedire il proselitismo religioso in Afghanistan, minacciando gravi conseguenze in senso contrario. Sentiamo. No ai tentativi di proselitismo in Afghanistan. L'appello, seguito da implicite minacce, è stato lanciato dai talibani al Papa Benedetto XVI alla vigilia del suo viaggio in Medio Oriente. Dopo le immagini della TV Al Jazeera, che mostrava soldati americani mentre distribuivano Bibbie tradotte in lingua locale, gli studenti coranici hanno diffuso in rete un comunicato che recita così: rivolgiamo un appello alla massima autorità religiosa cristiana, Papa Benedetto XVI, affinché impedisca concretamente le azioni stupide e irresponsabili di crociati insensibili. Chiediamo, ecco la minaccia, di non aspettare le gravi conseguenze di una reazione causata dalla sensibilità offesa dei fedeli. L'esercito USA, che respinge ogni coinvolgimento, è accusato di coprire le organizzazioni religiose americane che approfitterebbero della difficile situazione economica degli afghani per convertirli alla fede di Cristo. Addio fatali, TR24, Sole 24 Ore. E intanto la polizia israeliana prevede di mobilitare ben 60.000 uomini per garantire la sicurezza di Papa Benedetto XVI nella sua visita, che come dicevamo inizia domani in Giordania, sarà in Terra Santa dall'11 al 15 maggio. Come si appresta ad accogliere il pontefice proprio la Terra Santa? Sentiamo Victor Batarsé, sindaco di Betlemme, al microfono di Daniele Morini. We are so anxious. Siamo molto ansiosi per la venuta di Sua Santità Benedetto XVI nella città santa di Betlemme. C'è grande gioia da parte di tutti, cittadini, istituzioni e religiosi. Stiamo dando alla città la sua immagine migliore per accogliere il Santo Padre e crediamo che la sua venuta qui ci darà forza per rimanere sulla nostra terra. Siamo noi, cristiani di Betlemme, che custodiamo i luoghi santi. La venuta del Papa ci dà grande entusiasmo per rimanere in quest'area come comunità cristiana insieme ai nostri fratelli musulmani di Palestina. Centoquarantottesimo anniversario delle Forze Armate Italiane. Oggi la cerimonia ufficiale. Paola Cavadi. Sentite il inno di Mameli, cantato a gran voce dagli uomini e dalle donne dell'esercito italiano, che oggi compie 148 anni. Ad aprire le celebrazioni nella sede del comando della Brigata Granatieri a Roma è stato il presidente della Repubblica Napolitano, accompagnato dal ministro della Difesa La Russa e dai capi di Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito Camporini e Castagnetti. Napolitano ha consegnato le medaglie al valore ai parenti dei militari caduti nelle missioni in Afghanistan, Libano e Kosovo. Sono oltre 10.000 gli uomini impegnati sia nelle missioni internazionali all'estero, sia sul fronte della sicurezza interna nella operazione Strade Sicure. Sentiamo a questo proposito un passaggio dell'intervento del ministro della Difesa La Russa. Quando andrà a scadenza l'operazione Strade Sicure, siamo pronti e lo stiamo studiando a dare la disponibilità, non solo per rinnovare una esperienza di questo genere, ma anche a offrire una ulteriore maggiore disponibilità, perché i risultati sono evidenti e perché la difesa e la prevenzione della criminalità deve continuare ad avvenire con uomini servitori dello Stato in divisa. Positivo il trend dei nuovi reclutamenti. All'Accademia di Modena ogni posto disponibile è conteso da 52 domande, per la scuola sottufficiale invece sono state presentate ben 178 domande per ogni posto libero. Cresce sempre di più poi il numero dei nuovi arruolati di origine straniera, attualmente sono 1.500, si tratta di figli di emigrati ritornati in Italia o di figli di stranieri che hanno poi acquisito la cittadinanza italiana. Roma è tutto, a voi studio. Grazie Paola Cavadi. E questo è un tema interessante, insomma un tema anche nuovo per noi, quello dei nostri militari, che sono però di origine straniera. Tra di loro c'è senz'altro anche, e lo salutiamo, il capitano Edmondo Tito. Buongiorno. Buongiorno. Lei è di origine senegalesi? Senegalese, sì, esatto. Però nato in Italia? No, sono nato in Senegal e sono stato adottato quando ero piccolo. Benissimo. Servire la patria, insomma, si diceva così un tempo, no? Era questa l'espressione che si usava. Lei, quella italiana, la sente sua? Come vive questa missione? Beh, io la sento come mia perché io vivo in Italia da quando avevo 10 mesi, quindi questo è il paese in cui sono cresciuto e che amo. Quando va all'estero, diciamo che non rappresenta esattamente il tipico soldato italiano. Più facile, più difficile? L'integrazione c'è nell'esercito? L'integrazione c'è, anche perché noi quando andiamo all'estero siamo chiamati ad operare con paesi alleati che magari per storie particolari dei paesi, per immigrazione, penso agli Stati Uniti o piuttosto che alla Francia o alla Gran Bretagna, in cui non c'è una diciamo unità come dire etnica, è facile trovare militari di colore o asiatici nell'esercito americano piuttosto che in quello francese o della Gran Bretagna. Senta, magari le provocherà qualche imbarazzo rispondere a questa domanda, io la faccio lo stesso. C'è un po' di razzismo nell'esercito italiano tra i suoi commilitoni, capita? A me, guardi, io sono nell'esercito dal 96, non è mai capitato nulla all'interno della Forza Armata. Francamente non... Insomma, è una buona notizia. Il grado, perché essendo ufficiale, però francamente devo dire all'interno... Devono portare rispetto, certo. Allora cercheremo di non metterla ulteriormente in imbarazzo, però ormai i militari italiani non ci sono solo all'estero, non lavorano solo all'interno delle caserme, ma anche nelle strade italiane, le operazioni strade sicure, strade pulite. I militari italiani ormai sono nelle nostre città. Sì. Gli abitanti invece delle città italiane si sono un po' stupiti di vedere anche ci sono militari di origine straniera, ma che ormai fanno parte integrante del nostro esercito, perché 1500 siete in tanti. Non siamo concentrati. Comunque no, guardi, io posso dirle, io all'epoca lavoravo a Perugia quando c'è stato il terremoto in Umbria nel 97. Comunque ho contribuito in piccolo per la mia parte, la popolazione ha ben accettato il mio piccolo sforzo. Insomma, a lei piace l'impiego dell'esercito nelle strade, lei è d'accordo? Questa è una decisione che non spetta a noi militari, però insomma è il Parlamento, il governo che decide come impiegare lo strumento militare. Certo, grazie allora al capitano, lo ricordiamo, Edmondo Tito, per essere stato con noi. Grazie a voi. Maggio è un mese in cui si parla spesso di cinema, innanzitutto per il Festival di Cannes, quest'anno dal 13 al 24, ma anche per i David di Donatello, gli Oscar italiani che verranno assegnati domani. E allora, per celebrare il grande schermo, oggi nei nostri consigli per la lettura parliamo del libro Il cinema di Arthur Penn, scritto dal critico Luca Malavasi e pubblicato dalle mani Micro Arts. Un nome, quello del regista Arthur Penn, che da subito non dice nulla, un nome po' dimenticato, come racconta lo stesso autore, intervistato da Alessandra Tedesco. Non dice nulla, tanto che in genere quando dico scritto, quando lo stavo scrivendo un libro su Penn, in genere la risposta era Sean, perché purtroppo Arthur Penn, non Sean, non sono neanche parenti, è un regista oggi un po' dimenticato, non fa più film dai primi anni 90 e quindi è un regista un po' dimenticato. In realtà le vecchie generazioni ricordano alcuni capolavori degli anni 60 e 70. Facciamo qualche esempio. Per esempio, il più famoso resta sicuramente Bonnie and Clyde o Gangster Story, ma poi Anna dei Miracoli, per esempio, Piccolo Grande Uomo, che è stato appunto il primo anti-western nella storia del nuovo cinema americano, e tanti altri. Qual è la qualità principale di Arthur Penn? Io direi la capacità molto americana, dei più grandi talenti americani, di coniugare spettacolo, anche nella sua declinazione proprio di intrattenimento, e approfondimento tematico, ma anche ricerca stilistica. I film di Penn sono film che a una prima occhiata vanno bene per un pubblico anche molto vasto, piuttosto generico, c'è un grande lavoro sui personaggi, un bel racconto, un certo ordine narrativo, e poi a poco si lasciano sfogliare. Sono film ricchissimi di significazioni ulteriori, sono film che lavorano in profondità. Non solo, ma sono anche film che proprio per questo continuano a possedere un potere straordinario. Film come Gangster Story, appunto Piccolo Grande Uomo, sono film che ancora oggi possiedono un'attualità politica, morale, ideologica straordinaria. E a proposito di libri, vi ricordo l'iniziativa di Radio 24 della Fiera del Libro di Torino. Io in un libro, in quale libro vi siete più riconosciuti? Scrivete una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Nella puntata del sabato, intorno alle 8:20, uno di voi può vincere due biglietti per la fiera che quest'anno si svolge dal 14 al 18 maggio. 13:35, GR24 Extra Large. La Fiat, ricordi che l'Italia è centrale. Il ministro per lo sviluppo economico Scajola incalza il lingotto. Secondo la stampa economica tedesca, l'accordo con la Opel prevederebbe anche la chiusura di due impianti in Italia. Riportati in Libia questa mattina gli immigrati soccorsi ieri nel Mediterraneo. Una giornata storica, dice oggi il ministro dell'interno italiano Maroni, ma le associazioni per i diritti umani insorgono. Boom nel mercato nero delle ristrutturazioni delle case, scoperti dalla Guardia di Finanza 5.000 evasori totali tra le piccole imprese. La crisi ha portato ad un calo dell'occupazione, ma non drammatico, così dice almeno il rapporto Union Camere. La metà di quelli rimasti a casa sono precari. Intanto c'è attesa per la decisione della BCE. Il Papa da domani in Medio Oriente, la minaccia arriva dai talebani sul web, il Vaticano fermi i crociati in Afghanistan. Il Messico tira un sospiro di sollievo, l'influenza suina sotto controllo, si riaprono negozi e uffici. Abbiamo già ricordato dunque anche nella prima parte di Extra Large la grande soddisfazione del ministro dell'interno Roberto Maroni per le operazioni che oggi ha visto l'immediato rientro in Libia dei clandestini soccorsi ieri sera a sud di Lampedusa. Sappiamo che presto all'opera ci sarà anche la fase operativa degli accordi con Tripoli sul contrasto all'immigrazione clandestina. Ma abbiamo anche visto che ancora una volta il contrasto in mare dei barconi di clandestini pone delle difficoltà che possono sconfinare in tragedie del mare. Ne parliamo allora con Gabriele Del Grande, giornalista fondatore del sito Fortress Europe, che monitora le vittime dell'immigrazione del Mediterraneo. Buongiorno. Buongiorno. Il salvataggio in mare, secondo le convenzioni internazionali, al di là adesso di quelli che sono gli accordi in più che si stanno cercando almeno di fare e di applicare, come funziona? Facciamo un po' di chiarezza. Quando si soccorre qualcuno in mare, cosa bisogna fare secondo le convenzioni internazionali? Beh, diciamo che innanzitutto facciamo chiarezza sulle competenze. Ci sono acque territoriali che arrivano a 12 miglia dalla costa dei vari stati, e poi ci sono acque internazionali. Quelle acque internazionali sono divise in base alla responsabilità del soccorso tra i vari paesi, per cui ci sono acque di competenza maltese, italiana, tunisina, libica. Le convenzioni dicono che in caso di qualcuno che stia rischiando la vita in mare c'è innanzitutto l'obbligo di soccorso e poi c'è l'obbligo di nuovo di portare i naufraghi nel porto sicuro più vicino. Questa è la definizione. Ecco, per esempio nel caso di ieri, sì, avvenuto a 53 miglia a sud-est di Lampedusa, il porto sicuro più vicino era Lampedusa e non certo Tripoli. Questa è una ma volontà. Neanche Malta ci sta ma dicendo. Nemmeno Malta. Questo è il problema che si è posto a Malta. Qual è? Malta ha delle aree di competenza per il soccorso che sono estremamente grandi. Non intende ridurre quelle aree perché evidentemente riceve dei finanziamenti europei per il pattugliamento in mare in base alla grandezza di quell'area e riceve anche delle entrate in base a ogni aereo che transita nello spazio aereo che corrisponde a quelle acque. Però allo stesso tempo non ha i mezzi per fare i soccorsi e non ha nessuna intenzione di portare i naufraghi a Malta, essendo una piccola isola non avendo insomma niente da offrire loro. Però il paradosso è che le acque di competenza maltesi arrivano praticamente a Lampedusa. Queste dunque le convenzioni del diritto internazionale. Poi c'è la volontà naturalmente del governo italiano e l'accordo con la Libia per il contrasto all'immigrazione clandestina. Vogliamo parlare anche di questo però, perché se per l'Italia può essere un successo il fatto di evitare nuovi sbarchi in qualche modo, però poi questi migranti finiscono in Libia, sappiamo un paese che è anche un regime in parte, a che condizioni vanno incontro questi immigrati? Perché sappiamo che ci sono delle denunce su questo. Sì, ci sono le denunce. Io vorrei fare una promessa, perché appunto oggi sembra un risultato storico, ma guardate che la stessa cosa non è la prima volta che succede. Tra l'ottobre del 2004 e marzo del 2005 circa 5.000 persone vennero riportate in Libia tramite un ponte aereo tra Lampedusa e Tripoli, e allora tutto quanto si bloccò con una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani e con una risoluzione votata dal Parlamento Europeo che dicevano proprio questo, dicevano sono operazioni illegali, sono deportazioni collettive senza identificazione di potenziali rifugiati in un paese, la Libia, dove le condizioni di detenzione sono inumane e degradanti. Io lo posso testimoniare anche in prima persona, perché quelle carceri le ho visitate nel mese di novembre, fra l'altro alcune sono state anche finanziate dall'Italia, e le condizioni sono inimmaginabili. Sono e non parliamo di cittadini libici che tornano in Libia, dovranno essere questo è fondamentale. Espulsi anche dalla Libia. Non viaggiano sui barconi per Lampedusa, la Libia è soltanto un punto di imbarco, un punto di partenza. Chi viaggia su quelle barche sono tunisini, sono egiziani, sono in parte rifugiati del Corno d'Africa, in particolare della Somalia. Che chiederebbero se potessero arrivare in Italia naturalmente anche il diritto d'asilo. C'è un altro punto brevemente che vogliamo toccare, perché gli sbarchi di clandestini fanno molto, molto clamore, attirano l'attenzione dei media italiani ma anche internazionali. Però che quota rappresentano dell'immigrazione irregolare che arriva in Italia? Una quota non credo maggioritaria. Esatto, questo è un dato fondamentale, sono dati ufficiali del Ministero dell'Interno, soltanto il 13% di chi oggi vive in Italia senza un documento di soggiorno è arrivato via mare, l'altra percentuale, l'87%, sono persone arrivate con un visto turistico lasciato poi scadere. Questo è il vero problema è che non c'è un modo legale, facile, semplice per arrivare a lavorare in Italia. Se qualcuno di voi vuole assumere un cittadino straniero senza documenti, scoprirà che è tecnicamente impossibile. E non c'è neanche un modo di assumerlo dal suo paese prima che la persona parte. Ora voi ditemi quale persona dotata di buon senso potrebbe assumere un perfetto sconosciuto dall'altro lato del mondo? Nessuno. Poi c'è la questione dei rifugiati, l'avete detto, una persona su tre di quelle che arrivano a Lampedusa sono riconosciute da commissioni dove ci sono membri del Ministero dell'Interno, quindi non certo di parte, sono riconosciute come rifugiati politici, persone verso le quali ci sono degli obblighi internazionali. Grazie allora Gabriele Del Grande, fondatore del sito Fortress, da aggiungere che ovviamente non c'è neanche un modo né facile né semplice per fermarla, l'immigrazione clandestina. Andiamo sui giornali stranieri? Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Andiamo in Messico perché sappiamo che in queste ore cerca di tornare alla normalità. Qual è la situazione? Sì, la maggior parte dei giornali messicani e di lingua spagnola in Europa, come El País, in Messico per esempio Excelsior, un giornale molto diffuso in Messico, e appunto in Europa El País o El Mundo, sottolineano che il Messico vuelve alla normalità, cioè appunto si sta finalmente avviando alla normalità, i contagi sembrano fermati e comunque si è individuato il modo migliore, la cura migliore, e ci sono sufficienti farmaci per curare eventuali nuovi casi. Da una parte però sembra che la paura, come sempre, la paura non si scatena, poi si spegne come un interruttore, e quindi i giornali sottolineano che nonostante il governo rassicuri, le autorità sanitarie rassicurino, ci sono ancora moltissime persone che, anche se gli viene imposto questo ritorno alla normalidad, in realtà preferiscono magari ancora prendere delle precauzioni, quelle stesse che gli erano state chieste pochi giorni fa, come non andare nei luoghi pubblici, non mandare i bambini a scuola, eccetera. Quindi diciamo che ci vorrà poi ancora un po' di tempo però per tornare alla vera normalità. Sugli altri giornali degli altri paesi la questione c'è ancora? Sì, poi è interessante che El País poi ha in realtà 4 pagine di approfondimento, perché il problema della Spagna in questo momento sono le esportazioni di maiali. Anche qui ci è stato detto, anche a noi in Italia, niente panico, se la carne è cotta non c'è pericolo, eccetera, però di nuovo la paura è una cosa irrazionale, e quindi per esempio El País spiega che ci saranno sicuramente delle ripercussioni sull'esportazione di carne di maiale, con quello squisito prosciutto che loro fanno in Spagna, così famoso per esempio, che è un prosciutto che viene esportato in quantità enormi nella maggior parte dei paesi europei, e per esempio in Russia, e la Russia ha già detto, spiega il Paese, che vuole per ora mettere una specie di stop preventivo alle importazioni di carne di maiale spagnola, e questo potrebbe avere delle ripercussioni sugli allevatori ma anche insomma sull'economia, in un momento in cui la Spagna, sappiamo, è messa peggio di tanti altri paesi europei. Problema non solo nostro, insomma. Mm-mm. Grazie, grazie alla nostra Giulia Crivelli. Restiamo tra donne, anche se dicendolo io fa un po' ridere, perché Amiche per l'Abruzzo è esattamente il nome dell'iniziativa che un gruppo di cantanti, donne, a cominciare da Laura Pasini, stanno facendo in solidarietà con l'Abruzzo. Con i terremotati. Allora, ti tolgo un po' di impiccio. Restiamo tra donne, lo chiediamo al nostro inviato, che però è ancora un uomo, Marco Lignana. Sì, buongiorno, io sono qui a San Siro dove appunto stanno presentando il grande concerto per l'Abruzzo che sarà il primo giorno d'estate, quindi il 21 giugno, un evento come avete detto organizzato in primis da Laura Pausini ma con altre due madrine d'eccezione della musica italiana tutta al femminile, ovvero Gianna Nannini e Elisa. Il concerto sarà proprio qui allo stadio di San Siro, i proventi andranno alla scuola Edmondo De Amicis dell'Aquila che come sapete necessita di importanti lavori di ristrutturazione dopo appunto il terremoto. In questo momento le madrine dell'evento stanno presentando quello che è un appuntamento musicale davvero senza precedenti, pensate che sono oltre 50 le artiste che hanno detto sì a Laura Pausini. Molte di queste sono presenti oggi, come per esempio Dolce Nera, Spagna, Paola Chiara, Siria e veramente tante altre, tra cui ha dato il suo ok proprio all'ultimo momento anche Raffaella Carrà. C'è anche il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini che ha fornito il suo sostegno diciamo istituzionale per la riuscita del concerto. C'è anche lei, è una donna, quindi sì. Un ultimo aspetto che ci riguarda è appunto che 13 network radiofonici nazionali trasmetteranno l'evento in diretta e in contemporanea. Tra i canali c'è anche ovviamente Radio 24, quindi l'appuntamento è il 21 giugno dalle 21 alle 23:30. Segnatevelo. 13:47. E nella prima parte di Extra Large siamo partiti dalle notizie che arrivano dalla Germania, la stampa economica tedesca dà delle indiscrezioni, la fusione tra Fiat e Opel prevederebbe anche la chiusura di due impianti in Italia. Il Lingotto non commenta, il ministro per lo sviluppo economico Scajola ricorda alla Fiat che l'Italia è centrale. E poi riportati in Libia gli immigrati soccorsi ieri nel Mediterraneo, una giornata storica, ha detto il ministro dell'Interno Maroni, però alcune associazioni dei diritti umani sono insorte, dicono è un'operazione illegale. Poi le notizie economiche, il boom nel mercato nero delle ristrutturazioni delle case, scoperti 5.000 evasori totali, pensate, tra le piccole imprese. E poi le previsioni sull'occupazione per quest'anno, da Unioncamere si parla di 220.000 occupati in meno quest'anno. E abbiamo parlato anche dell'imminente viaggio in Medio Oriente del Papa con le minacce dei talebani via web. Abbiamo anticipato poco fa, dunque la Banca Centrale Europea ha tagliato di un quarto di punto il tasso di riferimento e ora all'1%. Francoforte, Beda Romano, buongiorno. Beda, inutile dire nuovamente siamo a un record storico perché qui ormai ne infrangiamo ogni volta che la BCE decide di prende una decisione. Beh sì, siamo alla settima riduzione in poco più di 6 mesi. La banca ha ridotto il costo del denaro di 325 punti ed è a questo punto all'1%, che è naturalmente un record storico. Credo che sia addirittura un record storico per gran parte delle banche centrali che fanno parte della zona euro. L'impressione che si trae è che a questo punto il consiglio direttivo lascerà il costo del denaro all'1% nei prossimi mesi e non porterà il costo del denaro allo zero come invece hanno fatto in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Giappone. Capiremo però di più, ecco, che intenzioni ha la BCE quando ci sarà la conferenza stampa del presidente Jean-Claude Trichet alle 2:30. Perché come sempre sono importanti le considerazioni che vengono fatte poi in un momento del genere sullo stato dell'economia e sull'andamento della crisi, no Beda? Esattamente, sì, è l'occasione per il presidente di chiarire la strategia della banca. Sappiamo che la banca ha al suo interno diverse anime, mi sembra che una maggioranza dei governatori non voglia ridurre il costo del denaro sotto l'1%, ma ci sono dei banchieri centrali che invece pensano che si debba scendere sotto l'1% vista la gravità della crisi. Ma ho l'impressione che in questo momento il consiglio direttivo vorrà aspettare e capire se vi è o meno una stabilizzazione dell'economia, come sembra si possa percepire dagli ultimi dati. E naturalmente doveroso l'appuntamento alle 15 con GR24 delle 15, alle 14:30 ci ricordavi tu la conferenza stampa, allora ne sapremo di più. Grazie nel frattempo a Beda Romano. E veniamo adesso, in Italia. Sì, andiamo alle novità annunciate dalla Alitalia quest'oggi a Venezia, perché a Venezia ce lo spiega Silvia Menetto e quali sono naturalmente queste novità. Buongiorno intanto, sì, proprio a Venezia, perché Venezia, oltre ad avere Alitalia alle spalle, è la città con il più grande fascino al mondo, così ha detto Colaninno, e su questi due presupposti si basa proprio questo accordo tra Regione Veneto e Alitalia per la promozione del territorio del nord-est, puntando soprattutto a delle politiche di costi dei biglietti. L'accordo prevede anche una base stabile sull'aeroporto Marco Polo di Venezia con 5 aeromobili, il raddoppio degli equipaggi, la costituzione sempre all'aeroporto veneziano di un'unità tecnica manutentiva. Comunque il presidente Colaninno è venuto a Palazzo Balbi per ribadire che la nuova Alitalia gode di buona salute, anche se lui stesso non nasconde problemi di customer satisfaction. Comunque Venezia è il primo quadrante su cui si basa il piano di rilancio societario, ha detto. Obiettivo ovviamente il potenziamento delle tratte nazionali e internazionali con tariffe low cost per acquisire sempre nuove quote di mercato. Un gioco che è piuttosto semplice, perché se teniamo conto delle potenzialità appunto che ha la città lagunare e di tutto l'entroterra produttivo veneto, i conti sono presto fatti. Il sogno è di tutti e soprattutto quello di un collegamento diretto Venezia-Shanghai, su cui tutti sono concentrati, ma su cui appunto Colaninno ha chiesto l'aiuto economico sia di Regione che di Save, che è la società che gestisce l'aeroporto. E per ora è tutto. Grazie a Silvia Menetto. Un'idea per il prossimo fine settimana? La lussuria, il settimo dei peccati capitali e i suoi antidoti, da oggi fino al 17 maggio protagonista a Lodi, è la settima ed ultima edizione del festival dedicato ai sette peccati capitali, un festival che ogni anno richiama oltre 20.000 visitatori. La lussuria resta un vizio o è diventata una virtù? La questione nei giorni del dibattito nazionale sulle virtù amatorie in politica come elemento a favore o contro non è affatto secondaria. All'interrogativo tenterà di dare una risposta il Festival dei Sette Peccati Capitali di Lodi, giunto quest'anno alla sua ultima edizione. 11 giorni di eventi, incontri, mostre e spettacoli per confrontarsi sulla lussuria e sui suoi antidoti, primo fra tutti la sobrietà. Quella New Frugality, cui ha dedicato la copertina di recente anche il Time. Ma è ancora d'attualità parlare di peccati capitali? Risponde Andrea Ferrari, assessore alla cultura del Comune di Lodi, che ha curato in questi anni la rassegna. Intorno a ogni peccato si è sviluppato sempre un ragionamento importante. Alcuni, penso per quello della cilia, erano magari anche sconosciuti anche nel loro significato. Quello della lussuria, che è quello più forse appariscente, più banale, in realtà noi abbiamo cercato di svilupparlo fin dalla partenza del festival di oggi con un'attenzione alla non banalità e alla non volgarità. Per il filosofo della scienza Giulio Giorello, che stasera apre le danze, lussuria è anche passione del conoscere. Per il funambolico Alessandro Bergonzoni, in programma domani, è una sorta di bulimia della scrittura. Per Massimo Picozzi, il prologo di Un crimine per Aldo Grasso, un vizio catodico, un vizio negato quando si parla invece di sessualità e disabilità. In cucina la lussuria diventa ovviamente un menù afrodisiaco, in gioielleria un diamante, che però, ecco l'antidoto, può essere anche etico. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio Migliorati in studio, il coordinamento era di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Una buona giornata a tutti, ci risentiamo domani a partire dalle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.